Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E penso che questo sarà un periodo che ricorderò, e lo ricorderò come un bel periodo. La mattina mi sveglio presto, vado in biblioteca passando dal ponte sull'Adige. Verona è bella a fine maggio, alle 8 del mattino. Ti fa venire voglia di vivere. Si respira con la sensazione che solo la mattina presto nelle giornate estive puoi assaporare fino in fondo. Quella sensazione speciale quando le strade non sono né piene né vuote. Vedi gente affaccendata ma non troppo stressata e ti viene da sorridere a tutti. E allora lo faccio. Sorrido, anche se qualcuno ricambia con uno sguardo sospettoso. No, non sono pazza. È che in questo periodo un po' continuerei a sorridere e un po' piangerei, senza smettere più. Mi chiamo Silvia Crosoli, ho 22 anni, mi sono laureata quest'estate in Lingue e Culture per il Commercio Internazionale e in questo momento sono a Sunderland in Erasmus. Più o meno verso le 4 di questa mattina mi sono svegliato un po' per via della cena di polenta verze, un po' per i 28 gradi che ancora ci sono a Milano e un po' per una zanzara che probabilmente era ancora... ce n'erano due ieri notte a Milano, una era a casa mia e una era a casa di Bonini e ci ha svegliato... tre anche a casa di Stefano e ci ha svegliato tutti tra l'altro a quell'ora lì. Mi aggiravo per la casa e ho trovato della posta, cioè era la posta che avevo raccolto, e mi sono accorto che nelle buste che c'erano ce n'era una più grande delle altre che non avevo notato, che diceva così: Istat, Istituto Nazionale di Statistica, censimento 2011. E io l'ho aperta questa busta e lo faccio adesso. Non so se dovrebbe esservi arrivata già a casa, perché il censimento è tra qualche giorno. Comunque non so se vi è arrivata o non vi è arrivata, se non l'avete vista o non l'avete aperta. È un... sono due o tre blocchi di fogli, una specie di quadernetto, c'è una busta per rispedirla e poi c'è un foglio di presentazione. Il foglio di presentazione dice così, lo leggo adesso, ne leggo un pezzo, questa notte me lo sono letto tutto. 9 ottobre 2011, quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Roma, 11 luglio 2011. Vabbè, gentile signore e signori, eccetera eccetera, eccolo qua. Il censimento, effettuato ogni 10 anni su tutto il territorio nazionale, rappresenta un'importante rilevazione che permetterà di conoscere la struttura demografica e sociale dell'Italia e dei suoi territori, di acquisire informazioni utili a comprendere meglio la realtà in cui viviamo. Saremo proprio noi cittadini, infatti, ad essere i veri protagonisti dell'indagine e sarà preziosa la collaborazione di tutti. La data del censimento è il 9 ottobre 2011, che è credo venerdì, no? Oggi è il 4... 5, 6, 7, non ce la sto facendo, sto contando a caso, è tipo sabato, è domenica, il 9 ottobre è una domenica e si prega quindi di non compilare il questionario prima di tale data perché farà fede la notte, credo, tra sabato e domenica. Insomma, me lo sono letto, ho guardato un pochettino, non l'ho ancora compilato, però ho guardato un pochettino le domande che ci sono nel censimento, tipo, vabbè, dimore, che lavoro fai, notizie anagrafiche, condizione professionale, non professionale, istruzione, stato civile, cittadinanza. A un certo punto, sarà che erano le 4 del mattino, sarà che la verza ancora mi girava nello stomaco, ho capito una cosa. Ho capito che in qualche modo quello che noi stiamo facendo con questo programma, con voi siete qui, è una cosa che si avvicina al censimento. Chiaramente è una cosa totalmente priva di scientificità e priva di tecnicismi, ma è una raccolta di storie. È una raccolta di storie che già adesso, che è passato praticamente un mese domani, dall'inizio del programma sta accadendo e che sono convinto accadrà man mano che il programma prosegue e alla fine. È una piccola fotografia delle storie di questo paese, perché anche se riguardano storie che sono successe fuori da questo paese, anche se riguardano persone che magari sono straniere ma vivono in questo paese, in qualche modo il modo in cui vengono raccontate, gli episodi che sono accaduti, che siano accaduti 100 anni fa o 2 giorni fa, il modo in cui sono raccontati appartengono all'epoca che stiamo vivendo e in parte a questo paese qui. Questo mi ha riempito di gioia e non mi ha permesso di dormire per il resto della notte. 349-238-6666 oppure voi siete qui @ radio24.it nel giorno del 12° compleanno di Radio 24. Auguri a lei, auguri a tutti noi. 12 anni, esattamente la metà di quelli che ne porta. Questa è sottile Paolino, ma non è male. C'è anche un profilo Facebook del programma che si chiama Matteo Caccia, io sono qui. ormai avete capito perché non è voi siete qui, semplicemente perché non si può più cambiare il nome e rimane quello. Le storie continuano ad arrivare e io ne sono felice e vi ringrazio. Compilate il questionario relativo al censimento, così sappiamo quanti siamo, e continuate a scrivere storie, così sappiamo invece chi siamo. Oggi parliamo di una storia che è la storia di Silvia. È una storia che parla dell'università. Silvia è una ragazza che ha 22 anni, poi la sentiamo più tardi al telefono, e quindi racconta di una cosa che finisce per lei e che è molto importante, che è l'università. La puntata di oggi però è dedicata a tutte quelle cose lì, a tutte le cose che stanno per finire, non sono ancora finite, ma ci manca poco. Guardo il mio riflesso nella finestra. Ho solo un orecchino. L'altro l'ho perso per strada. Vado matta per gli orecchini grandi, quelli vistosi, un po' kitsch. Anche se questo non lo dico io, lo dice Marco e io ovviamente non sono d'accordo. Lo chignon che mi raccoglie i capelli si è sciolto. È tardi e io sono sola nel mio mini appartamento universitario. La mia coinquilina beata, lei è in vacanza e io sono qui, da sola. Fuori tutto tace. Si sente solo qualche automobile in lontananza e qualche raro movimento di altri abitanti del palazzo. Intorno a me le luci basse accese, i libri sotto gli occhi, le penne sparpagliate sul tavolo. E in testa sta maledetta tesi, che sembra non finire mai, che il relatore corregge fino all'ultima virgola, con delle correzioni che faccio leggere alle mie amiche da quanto sono ridicole. La più bella è stata un ma, scritto proprio M-A-H, di fianco ad alcune frasi. Che giuro, quando avrò finito tutto questo, credo che andrò da lui e gli chiederò: scusi, adesso mi spiega cosa vuol dire quel ma? Il mio corso di studio è durato 3 anni e ho scelto le lingue per poter insegnare un giorno le lingue. Penso che sarà un periodo che ricorderò, e lo ricorderò come un bel periodo. La mattina mi sveglio presto, vado in biblioteca passando dal Ponte dell'Adige. Verona è bella a fine maggio, alle 8 del mattino. Ti fa venire voglia di vivere. Tutto luccica. Si respira quella sensazione che solo la mattina presto in estate puoi assaporare. Quella sensazione speciale quando le strade non sono né piene né vuote e vedi gente affaccendata ma non troppo stressata. Allora ti viene da sorridere a tutti. E io lo faccio, sorrido, anche se qualcuno mi guarda un po' sospettoso. E che in questo periodo un po' continuerei a sorridere e un po' piangerei, senza smettere più. È per questo che questo momento sarà da ricordare. Sono lontana da casa, dai miei affetti, da Marco. Mi alzo presto perché devo studiare e non ho tempo per distrarmi. La mattina vado a scrivere la tesi, persa tra le mille stanze della biblioteca, i mille libri impolverati. Gli sguardi dei ragazzi seduti ai tavoli intorno a me, i sospiri che ogni tanto rompono il religioso silenzio della biblioteca, sono uguali per tutti. Noia, rassegnazione, ansia, voglia di uscire e godersi fino all'ultimo raggio di sole queste splendide giornate di maggio. Mi piacerebbe conoscere le vite di tutti i ragazzi che mi circondano. Quando sono stufa di quello che sto facendo, inizio ad indagare, guardandomi intorno con circospezione. Alcuni ragazzi sono chiaramente dei liceali. Tengono in mano libri di Catullo o esercizi di analisi. Sbirgio quello che fanno e un po' l'invidio. Altri come me invece sono circondati da pile di libri e hanno davanti un computer. Ecco, questi ultimi condividono il mio stesso destino. Sono quelli della sessione estiva, che hanno avuto la pazza idea di laurearsi a luglio. Insomma, quando tutti saranno al mare, oppure in piscina, o in qualsiasi altro posto in vacanza, questi saranno come me, chiusi in casa a studiare la tesi. Bianchi bianchi, con le occhiaie, i gesti accelerati perché non bisogna perdere tempo. Verso le 9 torno a casa. Ceno, rituali chiamate di buonanotte e mi metto ad ascoltare la radio. Nonostante tutto sono serena. Non ricerco i miei compagni di università. Non l'avrei mai detto, ma in questi giorni, in queste settimane, mi piace la solitudine. Ricordo quei giorni, li ricordo con un po' di nostalgia, ma la nostalgia non è tanto un sentimento che mi appartiene. Mi piace ricordarli allegramente, ma mi piace anche andare avanti. La fine delle cose mi attrae e mi respinge. Mi fa paura pensare che qualcosa sia per sempre, che un lavoro duri decenni, che una casa sia per tutta la vita, che le cose non cambino più. Però ho il timore che le cose che sono state così, in quel modo lì non lo siano più. E non è paura del futuro, non è nemmeno nostalgia del passato, è proprio attaccamento al presente. È quella cosa che mi fa tenere in mano un libro aperto con la paura di girare le pagine, no? Per non far passare quelle parole che una volta lette sono andate. È la paura che guardandomi allo specchio, se abbasso gli occhi, quando li rialzo la mia espressione non sia più la stessa. Che poi a pensarci uno diventa matto, perché ogni momento che passa è un momento che finisce. È solo che alcuni si notano di meno e altri di più. Altri di più perché le cose che ci sono dentro in quei momenti lì, quando finiscono, ti rendono sempre la vita un po' diversa da prima. If I was a man, I'd take the time to sit and think right, to walk the right road, but I ain't a man. And if I was a child, I might kiss you on the face, hold on to you, beg you, but I ain't a child. Mi è piaciuto molto leggere il racconto di Silvia. Mi è piaciuto perché si sente chi è Silvia. L'ho vista nella descrizione dell'orecchino che c'è e in quello che non c'è. L'ho vista andare veloce in bicicletta per le strade lungo l'Adige. Ho addirittura sentito l'aria tiepida di maggio in quella città splendida che è Verona. Ma mi è piaciuto perché ho vissuto un momento che viviamo tutti e che magari non ce ne accorgiamo nemmeno. Il momento in cui le cose finiscono. Nel suo caso quel momento è forte ed è pure evidente, perché la fine dell'università, se la fai e se l'hai fatta, la aneli per anni, ci lavori per arrivarci, esame dopo esame. La senti nel peso dei libri che porti nella borsa tutti i giorni. L'aspetti talmente tanto che quando arriva hai tutto il tempo di assaporartela fino alla fine. Ma la fine delle cose riguarda tutto quello che ci circonda, che ci tocca o che magari non ci sfiora nemmeno, ma ci passa davanti agli occhi. La fine di una passeggiata in montagna, quando vedi il rifugio e mancano solo pochi passi, un centinaio di metri, o la fine di una canzone che ti piace e magari ti sei dimenticato di mettere il repeat sull'iPod, e quando te ne accorgi quasi ne sei felice, perché a sapere che dopo la fine sarebbe ripartito uguale non te l'avrebbe fatta godere così tanto quelle note finali. La fine di un lavoro, anche se non ti è piaciuto. La fine di una vacanza, l'ultima sera, quando il sole sta scendendo e il giorno dopo non lo vedrai più scendere lì. Ma anche la fine di una giornata difficile, no? In cui sono successe cose che non ti aspettavi, in cui ne hai fatte molte più di quanto immaginassi quando ti eri svegliata. Ecco, tutti questi momenti e tutti quelli che non ho elencato, quando finiscono, hanno sempre un punto particolare. Il punto è quello in cui ce ne si rende conto. Il momento in cui si capisce che, sì, è vero, sta proprio finendo. Ecco, quel momento lì è sempre un momento sospeso, in cui, in un attimo, ti appare come un'immagine unica. È il tempo che è appena trascorso e che hai impiegato per fare quella cosa lì. Solo che in quella sospensione ti appare anche il futuro, quello che sarà di lì a poco, e che parte proprio dalla convinzione che quello che è stato non sarà più. Io mi sono scelto un lavoro per cui in continuazione inizio e finisco delle cose. Da qualche anno a questa parte poi ogni fine stagione è più o meno la fine di quel programma e quindi di quell'esperienza. Ovviamente non tutto finisce, fortunatamente, o almeno non ad ogni fine di stagione. Ci sono le persone che ti porti dietro, ad esempio, con cui lavori. Ci sono le cose che hai trovato, che hai scritto, che hai detto. Ci sono le cose che hai pensato. E poi, vabbè, nel mio caso ci sono le persone che sono lì ad ascoltarti. E che rimangono, si spera. E ogni volta tutti però a dire quella boiata, no? Che ogni fine è sempre un nuovo inizio. Che è una cosa che in realtà dicono quelli che sono fuori da lì, che non si sono affezionati, che non hanno lavorato quella cosa. Altrimenti non lo direbbero con tanta leggerezza, perché saprebbero anche loro che ogni fine, in quel momento, è solo una fine. Perché il nuovo inizio riguarderà sì un'altra storia, chissà dove, chissà quando. Però quando penso a questa frase, mi viene in mente un episodio che mi riguarda e che riguarda la fine di una cosa che nella fattispecie è stata la stessa di Silvia, cioè la fine dell'università. E la fine dell'università nel mio caso ha combaciato, no, forse no, non l'ha esattamente combaciato, è stata proprio l'occasione per conoscere una persona con cui poi ho iniziato a fare altre cose parecchio tempo dopo. Le altre cose sono questi programmi, i programmi che sentite in questa radio, e quella persona si chiama Stefano D'Andrea. Io avevo 27 anni quando mi sono laureato, insomma, me la sono presa con calma, va. Avevo proposto una tesi sulla radiofonia, e, per l'esattezza sull'uso che alcune trasmissioni della radio italiana facevano delle telefonate in diretta agli ascoltatori. E il docente di sociologia della comunicazione accettò il titolo, non so nemmeno perché, e mi indirizzò da un suo assistente. Quell'assistente si chiamava D'Andrea, anche se a me veniva da chiamarlo di Stefano, ma non ero l'unico. Ci incontrammo nel suo ufficio in università e lui mi stette subito simpatico, perché non parlava come un professore e sembrava anche disponibile. Mi disse di mandargli un sommario e poi i primi capitoli. Io al tempo facevo altro, quindi feci passare 2 mesi senza farmi vivo. Poi, preso dal senso di colpa, un giorno andai su Google e feci la cosa che chiaramente adesso non si fa più, però all'epoca un pochettino ancora si faceva, e cercai il sito delle tre radio che stavo analizzando, e quindi feci un bel copia e incolla della storia, perché mi pareva che come inizio questo inquadramento, no, fosse giusto, e quindi glielo spedì. Lui mi rispose dopo qualche giorno, mi rispose con una mail che ricordo a memoria e che diceva così: caro Matteo, ho letto il primo capitolo della sua tesi. Poi, incuriosito dalla precisione del suo scritto, ho fatto una veloce ricerca su internet e ho trovato lì quello che aveva scritto lei. Ora, la domanda che le faccio non è tanto se sia giusto o meno fare copia e incolla di un testo trovato su internet, ma perché obbligare un povero individuo a spendere un'ora della propria vita a leggere quello che potrebbe tranquillamente trovare su un sito online? Attendo sua risposta. A presto, Stefano. Ecco, questa fu la fine della mia esperienza universitaria. Gli chiesi scusa, mi laureai e anni dopo siamo qui. Il sapore delle cose che finiscono è un pochettino quello lì che ha raccontato Silvia nel suo racconto, che un po' ti piace e un po' no, cioè un po' te lo assapori perché finalmente le cose finiscono, giustamente e fortunatamente, però anche un pochettino sentire quel sapore che rimane, no, come un retrogusto, te lo godi ancora un po'. Non so come sia finita per Silvia, ma credo bene. Pronto, Silvia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, bene. Senti, dimmi la prima cosa, com'è finita? Ti sei laureata, è andata tutto bene? Sì, è finita bene, molto bene. Con quanto l'abbiamo portata a casa sta laurea? Mi vergogno un po' a dirlo, ma 110 lode. Ma come ti vergogni a dirlo? Al massimo per 109. Non voglio fare la secchiona, beh, comunque benissimo. Senti, in cosa ti sei laureata, Silvia? Mi sono laureata in lingue per il commercio internazionale. Che è una laurea specifica per cui impari delle cose apposta per il commercio internazionale? Sì, esatto, è un ramo di lingua e letteratura straniera specifico per il commercio internazionale. Ah, scusa, fammi un esempio di un paio di esami, un paio di corsi. Allora, vabbè, a parte gli esami tipici di lingua e letteratura straniera, ci sono degli esami di marketing, di diritto internazionale, cose del genere. Senti, dove sei adesso invece? Adesso sono in Erasmus, in Inghilterra. Ma come in Erasmus? Ma scusi, l'Erasmus si fa dopo la laurea? No, perché io continuo con... Allora, la laurea che ho preso era la laurea triennale. Triennale, giusto. Sono in specialistica, magistrale meglio, e quindi sono in Erasmus per il primo anno di magistrale. E dove sei? Sono vicino a Newcastle, la città si chiama Sunderland. Certo, Sunderland. Ma scusami, ma è proprio vicino a Newcastle, giusto? Sì, sì, sì, è a 20 minuti di metro. Che è, io ci sono stato proprio più o meno un anno fa in questo periodo, che è tipo la settima città più divertente del mondo, dicono. Cioè, mi ricordo scene orribili di gente ubriaca alle 10 di sera di un mercoledì qualunque, vestita tutta di blu, oppure ragazze vestite da pin-up alle 7 sì, del pomeriggio. È una città molto universitaria, per cui è piena di giovani e anche giovani pazzi, per cui sicuramente avrei visto queste scene. Da quanto sei lì? Sono qui da 2 settimane. Ah, da pochissimo. E quanto ci stai? Fino alla fine di gennaio. Come sono i tuoi? Con chi vivi? Come hai trovato casa? Ai compagni di casa? Ma sono fortunata perché sono con delle ragazze carinissime. Sono 2 americane, una ragazza tedesca e poi una ragazza italiana. E ci troviamo bene. Insomma. Senti, e Marco cosa dice? Marco lo citi tu. Lo citi tu nel tuo racconto. Marco, immagino sia il tuo fidanzato. Sì, esatto. Quando è che viene Marco? No, non è vero. Viene a fine novembre. Come il nome non è vero? No. Giustamente hai voluto mantenere la privacy. Scusami, viene, hai detto a fine novembre. Sì. Ammazza, ma sono 2 mesi. Sì, è così. Ai, ai, ai, ai. Quanti anni hai, Silvia? Me l'hai già detto, ma perdonami. 22. Senti, quanto ti manca quella cosa che è finita, di cui racconti? Quanto ti manca l'università, quel tipo di vita lì? Beh, Allora, io adesso continuo, per cui diciamo che non è stato il tipico salto da fine università a inizio lavoro. Mm-hmm. Mi manca quel periodo che ti ho raccontato, è stato veramente un bel periodo, stranissimo ma un bel periodo. Senti, ma che cosa ti manca però di quel periodo? Ti manca la quotidianità, ti mancano le persone che sì, ti stavano incontrando? Esatto, la quotidianità, poi vabbè adesso sono lontano, per cui rileggendo quel racconto mi mancava proprio quell'atmosfera, io studio a Verona, per cui quell'atmosfera tipica di quella città, tipica di quando stai aspettando qualcosa che sai che arriverà, e quindi ecco quell'atmosfera. Silvia, grazie ancora, ti auguro buona fortuna, grazie per tutto. Ciao, buona grazie. Giornata. Voi siete qui. Silvia è molto carina e viene da una famiglia benestante. Si vede dalla foto, si vede dal modo in cui è appoggiata a un davanzale in pietra e dal maglioncino di cashmere bianco che indossa. Non chiedetemi come riesca a capire che è di cashmere, ma è di cashmere. Ha i capelli biondi lunghi, si intravede un braccialetto e un orologio prezioso, ha le unghie pitturate di rosso e sta guardando fuori da questo balcone, da questo terrazzo, verso un grande giardino con delle piante senza foglie. Sii sincero, anche tu sai che appartieni a Victor. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se egli parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso. No. Non oggi, forse nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita. Tutto è finito. Mandiamo Casablanca così, tra lusco e il brusco. 349-238-6666, questa è Radio 24 che oggi compie 10 anni, sono le 16.35, ho detto più numeri credo nella storia della radiofonia italiana in pochissimi secondi. Caro Matteo, per me sta per finire la mia relazione con Claudia, questione di poco, da una parte mi dispiace, dall'altra meglio così. Ma comunque io sono qui, la domanda che ci veniva era, non c'è il nome, quindi non sappiamo chi è. Ma Claudia lo sa oppure lo stai decidendo tu e lo stai comunicando adesso? Forse glielo stai comunicando in questo momento. Marco, quello che hai appena raccontato di Sunderland, che era riferito a Newcastle, in realtà succede anche a Liverpool. Figata, scritto in lettere maiuscole. Probabilmente, forse è tutta l'Inghilterra che succede così, che alle 7 già un po'. Secondo me però anche noi stiamo prendendo quella piega, eh? Se ti giri per le strade di Milano fuori dai barettini già alle 7:30, un pochettino, una mazzata te la vuoi prendere diretta qua, andare a casa a dormire. Ciao Matteo, mi chiamo Hermes. Nelle spiegazioni del censimento alla voce abitazione mettono come tipo anche la grotta. Ma qualcuno vive in una grotta con numero civico? Beh, a Matera magari, no? Ci sarà un numero civico nelle case. Ma qualcuno ci vive ancora nelle case di Matera? No, no. Ormai sì? Viola dice di sì. Viola dice di sì, ma secondo me lo dice un po' a caso. Ma quanto ci costa questo censimento? E quanto ci costa? Quello che deve costare costa. Se si deve fare, si fa. Non si poteva risparmiare evitando. Sì, e in cosa investivamo questi soldi? E quanti alberi hanno abbattuto per la carta? Guarda, ho la sensazione che sia riciclata, Le cose che stanno per finire, i miei soldi in banca. Sono quasi finiti. Antonello. E poi, io ho finito troppo presto di fare la mamma e non so se mi tocca di fare la nonna. Teresa. Non ho capito se spera di diventare nonna oppure no. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Quando l'altro giorno pensavamo a questa puntata e abbiamo letto il racconto di Silvia, è venuto in mente quasi subito a tutti quanti in redazione un pezzo di un libro che finisce, ma che parla della fine delle cose, che combacia con l'inizio, per cui la persona che sta leggendo la parte finale di questo romanzo in realtà sta leggendo della sua fine. È un romanzo che si chiama 100 anni di solitudine e fa così. Macondo era già un pauroso vortice di polvere e macerie, centrifugato dalla collera dell'uragano biblico. Quando Aureliano saltò 11 pagine, per non perdere tempo con fatti fin troppo noti, e cominciò a decifrare l'istante che stava vivendo. E lo decifrava a mano che lo viveva, profetizzando se stesso nell'atto di decifrare l'ultima pagina delle pergamene, come se si stesse vedendo in uno specchio parlante. Allora saltò oltre, per precorrere le predizioni e appurare la data e le circostanze della sua morte. Tuttavia, prima di arrivare al verso finale, aveva già compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza, perché era previsto che la città degli specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita dalla memoria degli uomini nell'istante in cui Aureliano Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene. e che tutto quello che vi era scritto era irripetibile, da sempre e per sempre. Perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla Terra. Che mostra pesca mignolo, che mostra pesca mignolo, esca mignolo passando me. Francamente me ne infischio. Allora risponde Fabio, che era l'autore dell'SMS di prima, che diceva che sta finendo la storia con Claudia. È triste, ma va bene così. Risponde, dice: Claudia lo sa, è di comune accordo. È strano, ma è così. Ciao Fabio, che sembra che appunto hanno fatto un incidente e hanno tirato fuori la cosa amichevole e hanno cominciato a dire: allora, io arrivavo da destra, tu da sinistra, va bene, io ho le mie colpe, tu hai le tue, però ci mettiamo qua e facciamo in modo che l'assicurazione paghi tutte e due. Unghie pitturate di rosso? Ah, perché ho detto che nella fotografia Silvia ha le unghie pitturate di rosso. E qualcuno si domanda se è dal manicure o dall'imbianchino. Perché non si dice pitturate le unghie? Come si dice? Pittate? Come si dice? Viola, Margherita, siete due donne, saprete come si dirà? Non lo sanno, non c'è una donna. Pitturate si può dire. Ok, sarà probabilmente un manicure che se l'è presa. E poi non capisco, Enzo di Milano che mi scrive: facciamo una protesta civile, non compiliamo i moduli del censimento. Ma perché? Ma perché no? È una roba che si fa da 150 anni ogni 10 anni. Cosa c'entra con la protesta? Contro chi? Contro l'Istat? L'Istat ti ha fatto qualcosa che non va? Non so, in caso di mancato recapito restituire a Istat, via Riccardo Balsamo Crivelli, Milano. No, compiliamolo sto... Ma ci metti veramente, ci mette 20 minuti nella notte, proprio nella notte tra sabato e domenica 9 di ottobre. 349-238-6666. Vi leggo l'ultimo messaggio che è arrivato oggi, è un messaggio di Davide, è arrivato al profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. E anche questo parla di tesi. Evidentemente finire l'università è la cosa che ti fa più rendere conto che sta finendo. Durante la scrittura delle ultime pagine della tesi avevo un'energia che non credo riuscirò mai più a riprovare. La tensione mi teneva sveglissimo e incapace di pensare ad altro. Dopo la consegna, nel tornare a casa in auto da Bologna, ho fatto una strada secondaria e mi sono goduto uno dei migliori momenti di relax della mia vita. Ricordo i colori dei campi fioriti con un'intensità che mai ho ritrovato. Ma fu solo un attimo, perché poi l'importante divenne il lavoro, l'ambito da approfondire, il master, eccetera, eccetera. A 6 anni di distanza penso che fu la felicità di un attimo necessario, ma passeggero. Grazie a lui, grazie a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Viola Bottoni. La storia di oggi era quella di Silvia, parlava delle cose che stanno per finire. Quella di domani invece è la storia di Alessandro, che racconta di emergenze in alto mare. Quando vedo le luci del faro Bocca, comincio l'avvicinamento al Golfo di Olbia, una manovra che avevo già fatto centinaia di volte. Guardo l'orologio, sono le 3 del mattino, forse le 4. Il sole tra poco si vedrà alle nostre spalle. Poi improvvisamente la radio inizia a gracchiare. Le parole sono chiare, sono quelle che nessuno vorrebbe sentire. Mayday, mayday, mayday. Nave Clearcos, stiamo affondando.